Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ferry Boat, Insalgante, Il Traghettatore, questa è l'edizione che affronta i temi della settimana che sta per entrare. A Roma si comincia col consumo dell'immagine della donna, che è il tema al centro di un convegno che è stato organizzato da Consumers Forum nella sede della Federazione Nazionale della Stampa. I lavori saranno conclusi da Emma Bonino. Domani è anche il giorno del premio responsabilità sociale d'impresa a Modena, la Camera di Commercio di Modena per l'esattezza. Qui sarà consegnato il premio della CSR, che è promosso da Confindustria di Modena e che è ormai giunto alla quinta edizione. Venerdì invece al Centro Servizio Volontariato San Nicola ci sarà il convegno sul microcredito e il no profit, stiamo parlando di Bari. L'evento ha una singolarità, garantisce il servizio di interpretariato LIS, che vuol dire lingua italiana dei segni, per chi non ascolta, cioè attraverso il movimento delle mani, potrà seguire il convegno. Parliamo adesso di Progetto Talea, che è un'iniziativa di Fondazione Ethnoland. Abbiamo con noi il presidente della Fondazione, Otto Biciocca, che ci spiega che cos'è esattamente il Progetto Talea. Il progetto Talea è un progetto della Fondazione Ethnoland, in realtà è un progetto che tende a valorizzare l'immigrazione qualificata. Talea è una struttura, che un progetto che tende a formare i talenti immigrati. In effetti il nostro payoff è il merito mette radice. Perché in realtà la situazione degli immigrati in Italia oggi si appresta semplicemente a una lettura strasciona. E noi crediamo che comunque, dopo aver osservato il fatto che più di 4% del corpo studentesco universitario è fatto dagli immigrati, e cioè oltre 50.000 studenti, che forse era necessario cominciare a riflettere intorno a questo capitale umano che non è valorizzato. Noi abbiamo quindi assunto la responsabilità di poter lanciare un percorso formativo, non esattamente un master, ma una scuola di motivazione, e cioè una scuola di leadership che tende a dare la piena consapevolezza agli immigrati di aver capacità di poter anche assumere il ruolo di responsabilità dentro le aziende, anche fuori aziende, insomma. Dove avviene questo corso di formazione? Lo terrete dove esattamente e quando? Il corso si è fatto l'anno scorso, questo anno si farà dal 2 al 12 di giugno al monastero di Camaldoli, nella provincia di Arezzo. Noi adesso siamo partiti con recruiting, stiamo accogliendo i curricula degli immigrati. Il profilo ideale è 5 anni di università, cioè 3 più 2, o anche chi ha il dottorato. L'importante è che sia immigrato. E quanti sono i partecipanti l'anno scorso? Quanti erano i partecipanti? L'anno scorso abbiamo fermato l'aula a 20 partecipanti su una selezione di oltre 370 curricula. Però quest'anno forse allargato un po' allora. Quest'anno abbiamo allargato molto di più, però rimane sempre un'aula di 20 persone, ma il vantaggio è che quest'anno faremo prima di tutto un assessment. In più faremo una giornata di carriera, noi lo chiamiamo Talent Welcome Day, che si terrà quest'anno il 14 di ottobre presso il Circolo della Stampa a Milano. Un'ultima annotazione, cogliamo l'occasione visto della sua presenza, Presidente. Lei è anche vicepresidente di Extrabanca, che a proposito di servizi all'immigrazione ha la caratteristica di essere la prima banca per gli extracomunitari in Italia. Che esperienza in 30 secondi è quella di Extrabanca? Banca è un progetto che ha una grandissima visione. Qui abbiamo messo intorno al tavolo un buon numero di imprenditori illuminati. È una banca commerciale a tutti gli effetti, una banca che si occupa del settore migrati, che è dedicata a quel settore, ma che non è esclusiva a quel settore lì. Oggi questa banca ha più di 85% dei suoi clienti sono immigrati, altri 15% sono italiani. È una banca a tutti gli effetti, quindi, però con un occhio di riguardo a questo target che sta giustamente, finalmente, uscendo fuori dalle sacche dello scandalismo mediatico. Grazie Presidente, vi lasciamo con questa ultima annotazione. Vi ricordo che ferribot@radio24.it è l'indirizzo a cui scrivere per segnalare le vostre iniziative. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Carmelo Lauricella in regia. A risentirci.